Il problema dei comportamenti inaccettabili del nostro Presidente del Consiglio è ormai insostenibile. Non possiamo lasciare che questo problema sia circoscritto all'interno del Parlamento, poiché non si tratta di un mero ambito politico. Noi, che siamo impegnati in contatti continui con colleghi di altri paesi, ci ritroviamo ripetutamente in una situazione molto imbarazzante. Il nostro paese viene deriso all'estero, e questa è solo una delle conseguenze minori. Pensiamo ai giovani, all'idea che si possono fare dei valori dell'impegno, del lavoro e delle responsabilità, infine dell'etica. Il nostro paese sembra ostaggio di una persona dai comportamenti inqualificabili. Non possiamo sentirci rappresentati da questa persona e da tutti coloro che non vogliono, non possono o non riescono a restituire al nostro paese la sua dignità. Noi ne proviamo vergogna. Questo è l'appello che circa 6 pagine di membri della comunità scientifica italiana rivolgono a tutto quanto il paese ed anche ai cittadini italiani all'estero, perché per queste persone dall'altissima sfera culturale il problema di questo paese non è la povertà dilagante, non è lo strangolamento dell'università pubblica, non è l'attacco al contratto nazionale del lavoro, non è l'attacco al diritto di sciopero, al diritto di parola, alla libertà di stampa, non è la speculazione sui terremoti, sui dissesti idrogeologici, sui disastri, non sono le infrastrutture del terzo mondo, ma sono 2 puttane ed un capo del governo che è semplicemente un porco. Questa è Banda Armata. Vai con la sigla. Razzinga! Razzinga! San Pietro arriva coi pugni teologici. Razzinga! Razzinga! Tuona, si scaglia dal sagrato contro il male. Se sei nemico prega è già finita la chiesa mattinitice. Razzinga! Razzinga! Croci rotanti, Razzinga, Pater Noster, Razzinga, ostia di fuoco, alla mente di Lutero, ma tutto il resto va da sé. Non conosce la paura né tra italiane che cos'è. Lotta cade, si rialza, sempre vincerà. Razzinga, Razzinga, Rosario. Doppio amen. Forte, con uno sguardo spacca in 2 conclave. Dagli occhi sputa fuori salmi gamma. Non c'è chi è forte più di te, Razzinga. Razzinga. Ha la mente di Lutero, ma tutto il resto fa da sé. Non conosce la paura né sa italiane che cos'è. Se hai bisogno puoi invocarlo, con la Bibbia apparirà. Razzinga! Razzinga! Bombe gnostiche! Razzinga! Luce divina! Razzinga! Spada teologica! Razzinga! Sermone perforante! Razzinga! Incenso atomico! Razzinga! Buonasera, buonasera agli ascoltatori di Fuori Onda Radio. Questa è Banda Armata, stiamo trasmettendo dall'aula occupata P2 dall'Università della Calabria. Buonasera anche agli ascoltatori che ci stanno sentendo da Radio Ciroma, dove andiamo in differita giovedì alle 17.30, e da questa puntata anche su Transizione di Fase. Abbiamo avuto un po' di problemi tecnici, come al solito ci capita, dal momento che il nostro armamentario, diciamo, è un po' rudimentale. E qui in aula occupata, tra una scheda madre della cavettatura e dei giornali vecchi, non è esattamente semplice fare la radio. Comunque questa trasmissione di Banda Armata sarà molto intensa, abbiamo parecchi argomenti da affrontare. C'è lo sciopero della FIUM che si è tenuto il 28 gennaio scorso, c'è la fantastica commissione statuto che dovrà applicare il DDL Gelmini. Poi da questo punto di vista avremo quasi un'anteprima, dal momento che il consiglio d'amministrazione dell'Università della Calabria è appena finito. C'è da parlare ovviamente di Egitto, di Balcani, di quello che sta succedendo nel resto d'Europa e nel resto del mondo. C'è da parlare dell'articolo 41 che il nostro beneamato presidente ha dichiarato, insomma, di voler riformare. C'era anche da commentare, insomma, quello che sta succedendo nella nostra regione, la campagna che la rete di difesa del territorio intende lanciare su acqua e nucleare, qualche episodio piuttosto curioso nel crotonese. E c'era anche da commentare questa commovente lettera della comunità scientifica italiana che si rivolge al resto del paese con una veramente con un piglio, con una solennità commovente. Ovviamente c'è da restare schifati di un atteggiamento simile da parte della comunità scientifica, che fra l'altro dovrebbe dare centralità a quello che sta accadendo all'università, invece da centralità, come abbiamo detto, a qualche puttana d'alto borgo, e non si offendano le altre. Detto questo, è in corso nel resto del paese anche una campagna di mobilitazione, quella lanciata da Libertà e Giustizia, se non mi sbaglio, che sta vedendo comunque rimpallare su Facebook molte iniziative. Ci sarà il 5 una serie di manifestazioni, ovviamente i vari Travaglio e Travagliani, Santoro e Santoriani, Bersani e Bersaniani si stanno gettando sul carro di questa stanno gettando sul carro, sì, Bersani, Bersaniani, Bersaglieri e Bersagliati, si stanno gettando sul carro di questa mobilitazione, che chiaramente non vuole far altro che togliere questo governo incapace per metterne un altro, sempre incapace, così come negli anni ci hanno dimostrato i nostri governanti di centrosinistra. E quindi ci sono anche una serie di iniziative piuttosto squallide, come quella del 13, che dovrebbe essere l'iniziativa delle donne, dal momento che sono offese da quanto sta accadendo in questi giorni. Ad ogni modo, partiamo da quello che è successo il 28 gennaio, ovvero dalle grandi manifestazioni che ha lanciato la FIUM grazie allo sciopero dei metalmeccanici. Ci sono state manifestazioni praticamente in tutte le regioni d'Italia. Non possiamo non esimerci da fare un commento anche sulla manifestazione calabrese, a cui noi come collettivo in realtà non abbiamo deciso di non partecipare, o quantomeno comunque non abbiamo partecipato per perplessità, nel senso, siamo in un momento di riassestamento, come dimostrano anche i vari problemi tecnici della radio, sì. Però ovviamente abbiamo seguito in maniera attiva, chi più chi meno, la giornata del 28. Si è cercato anche di trovare una intesa all'università, si è cercato di lavorare comunque come siamo soliti fare in quella direzione, e siamo arrivati a Vibo Valentia il 28, diciamo, in quella piazza, come individui, diciamo così, non come collettivo, ma comunque ovviamente molti di noi c'erano. E riguardo a quella situazione, le osservazioni sono state fatte sia da alcuni alcune componenti studentesche che c'erano su quel palco e sia da quelle che erano sotto. Le osservazioni ce le siamo fatte durante le assemblee che ci sono state nei giorni prima. Certo, non è stata l'organizzazione accolta in maniera proprio completamente positiva, perché diciamo che la situazione della è stata fatta in maniera abbastanza rapida diciamo emergenziale, se vogliamo. Non abbiamo avuto il tempo che a noi piace avere per affrontare determinate questioni, però è un inizio. Vabbè, chiaramente Gustavo è stato un po' morbido con la Fium Calabria, che praticamente non ha fatto nulla per far uscire questa manifestazione. Ha fatto una scelta inutile, che è stata quella di andare a Vibo Valentia nel nulla a fare una manifestazione, tant'è che la manifestazione calabrese, tutto sommato, possiamo dire che ha fatto schifo, insomma, non c'è niente di male, sia in termini di partecipazione, sia in termini di significati politici. Per fortuna il resto dell'Italia non è stato così. Abbiamo visto manifestazioni partecipatissime a Milano, a Cassino, quella del 27 a Bologna, ci sono stati comunque un'adesione altissima. C'ho proprio qui davanti i dati dell'adesione. Mi incuriosivano mi incuriosiva leggere i dati calabresi, per quanto non ci sia in realtà un settore metalmeccanico reale, ma voglio dire è piuttosto sparuto. C'è una media territoriale, per esempio, a Catanzaro dell'80% rispetto all'adesione, a Cosenza dell'80%, a Crotone del 75%, a Gioia Tauro del 70%, e Pollino Castrovilla di 100%, vabbè, saranno tre forse. 200 persone hanno prodotto queste due cose. Comunque, la cosa che ha colpito sicuramente è che non possiamo esimerci dal commentare è che gli studenti romani sono stati vittima di un blocco alla stazione di Colleferro. Una pratica che ultimamente le forze di polizia, o chi per loro, stanno attuando di continuo. Cioè, piuttosto che farsi rompere le palle nel corso di una manifestazione, ci bloccano nelle stazioni, negli aeroporti, bloccano i pullman prima di arrivare in una città. È successo che gli studenti sono stati fermati, sono stati fatti scendere dal treno alla stazione di Colleferro mentre stavano andando a Cassino, e dopodiché, anche grazie all'intervento, dei manifestanti di Cassino, la situazione è stata sbloccata, ma comunque si tratta di un episodio gravissimo, su cui dopo sentiremo anche la testimonianza di uno studente che ha partecipato alla manifestazione di Cassino. Di fatto si è impedito il diritto di manifestare, si è interrotto un servizio pubblico perché il treno è stato fermato. Si tratta di, insomma, una violazione piuttosto grave che ovviamente nella libertà di questo paese è passata assolutamente in sordina. Prima di sentire lo studente che è stato a Cassino, che è un nostro amico, compagno Dario dell'Università della Calabria, vai Gustavo, dillo, lancialo tu. Sofia Skabrigovic. Nel frattempo leggevo un po' i vari dati delle manifestazioni, un po' in giro per l'Italia, 10.000 a Genova, 10.000 a Termini Imerese, circa 5.000 a Bari, 35.000 a Padova, insomma una giornata importante per il paese dopo il referendum di Mirafiori, una giornata che non fa altro che comunque ribadire una richiesta forte, una pretesa forte che viene dalle piazze, dalle strade, dalle case di tutta Italia ormai da mesi, che è quella dello sciopero generale, un sindacato confederale fino adesso sordo a questa prospettiva, ma una prospettiva che comunque tra un po' diventerà assolutamente inevitabile, perché la mobilitazione sociale siamo sicuri non si mobiliterà, studenti, FIOM, forze sociali sono già al lavoro per costruire altre mobilitazioni. Nel frattempo abbiamo la testimonianza di Dario, che ha seguito la manifestazione di Cassino. Dario, dici qualcosa su come è andata. Ok, buonasera, ciao a tutti gli ascoltatori. Amici e compagni qui in diretta e a quelli che ci ascolteranno in differita, niente, come andate? È andata bene, io mi trovavo a Roma, ho detto vabbè, andiamo a quella di Cassino, e l'appuntamento era anche con i compagni studenti che partivano dalle varie università romane alle 7:30 a Termini, alla stazione di Termini, e niente, siamo andati lì alle 7:30, diciamo che i treni per andare da Roma a Cassino erano sostanzialmente due, il primo verso le 8:15, che è quello che ho preso io, e diciamo su questo treno c'erano anche comunque gli altri lavoratori che partivano da Roma e che non erano entrati nei pullman organizzati dalla FIOM quel giorno, e niente, siamo arrivati sostanzialmente in maniera tranquilla fino lì. Ci aspettavamo che la stessa cosa succedesse con il treno successivo, con gli altri compagni, circa 400 studenti universitari. Aspettavamo di ritrovarci a Cassino, e invece a Cassino non ci siamo trovati, nel senso che io all'inizio non ho percepito la cosa, perché diciamo, ho girato un pochino i vari spezzoni del corteo e mi aspettavo di vedere lo spezzone studentesco. Questo spezzone, man mano che si andava avanti, non compariva. E poi sono uscite fuori le notizie, ecco, di questo discorso che accennava prima Flavio di Colleferro. Sostanzialmente Trenitalia con la SCU, diciamo che si era messa d'accordo a Roma Termini perché i manifestanti diretti a Cassino potessero andare tranquillamente. E invece arrivate alla stazione Colleferro, che è una stazione sperduta nell'entroterra laziale con il nulla intorno, a metà strada tra Roma e Cassino, sono stati fermati, cioè hanno fermato il treno, Trenitalia ha fermato il treno con la scusa di un controllo biglietti, ha bloccato lì il treno e diciamo che c'è stata una trattativa con gli studenti che erano su quel treno. Alla fine si pensava essersi sbloccata questa cosa facendo un biglietto cumulativo per un centinaio di persone. Il biglietto cumulativo è stato fatto e Trenitalia non ha sbloccato lo stesso il treno. La cosa che non ha sbloccato il treno non l'ha sbloccato né per andare verso Cassino né per andare verso Roma, e bloccando sostanzialmente la linea, perché a quel punto giustamente i compagni, sentendosi presi in giro, hanno a quel punto loro bloccato il treno, e la risposta conciliante di Trenitalia è stata mandargli l'antisommossa a Colleferro. Quindi dopo un paio di ore noi a Cassino tranquillamente abbiamo sostanzialmente riempito Cassino, nel senso che il corteo era talmente lungo che praticamente probabilmente da come sentivo parlare i compagni e gli operai lì di quella zona, Cassino probabilmente non vedeva una manifestazione del genere da molto tempo, e tant'è che si è dovuto organizzare a far snodare il corteo avanti e indietro tra una parallela e l'altra della città, perché non avevano dove mettere i manifestanti. Niente, finito il corteo, ancora questa situazione a Colleferro non si era sbloccata, e giustamente il problema qual è? Il problema era che questi compagni a Colleferro erano 400, loro e l'antisommossa, e basta, senza né la possibilità di tornare a Roma né la possibilità di venire a Cassino. Allora a quel punto, diciamo, dal palco stesso si è deciso di andare alla stazione di Cassino, si sono occupati i binari in segno di protesta fino a quando questa situazione non si fosse sbloccata. La stessa cosa è stata fatta con il porto ad Ancona, abbiamo saputo in diretta, e la parola, diciamo, la parola d'ordine che circolava anche tra chi stava conducendo le trattative era praticamente far tornare a casa tranquillamente i compagni, nel senso che il timore fondato anche da parte di tutti quanti era che questa situazione degenerasse, e non avevamo nemmeno, anche noi, che io sinceramente da Cassino volevo andare lì a Correferro, però sostanzialmente da Cassino non avevamo treni che ci portassero lì. Quindi niente, diciamo, si è gestita nella maniera un pochino, non diciamo migliore, ma diciamo accettabile, nel senso che il Trenitalia ha voluto l'assicurazione da parte nostra, da parte della FIOM lì presente, di che fosse sbloccata la stazione di Cassino, cosa che è stata fatta, e loro avrebbero messo a disposizione un treno. Treno che è stato, abbiamo scoperto dopo essere stato pagato dalla CGIL. Cioè, la CGIL ha pagato ai compagni a Colleferro un treno per tornare a casa. Cioè, non il treno per venire alla manifestazione, il treno per tornare a casa. Niente, questa è stata la situazione. La cosa comunque a Cassino si è svolta molto tranquillamente, è stata partecipata. Spezzoni operai, spezzoni gli studenti, c'erano anche spezzoni studenti medi, niente, altro non so. Vabbè, mi sembra stata una descrizione abbastanza dettagliata e piuttosto buona, ci sembra la giornata che si è vissuta a Cassino. Non abbiamo una testimonianza con Colleferro, ma insomma l'immagine, la scena descritta da Dario sono abbastanza chiare. Chiaramente poi si sono lette sui giornali un po' di dichiarazioni dei dirigenti di Trenitalia, che sostengono che il problema era in buona sostanza il biglietto. In realtà, già che il problema del biglietto, ci sono delle procedure piuttosto quantomeno anomale che sono state attuate in quel caso. Sì, no, sul biglietto, in effetti i dirigenti di Trenitalia probabilmente si preoccupavano del biglietto di quella a Colleferro, però il biglietto che ci chiedevano a noi da Cassino per poter tornare a Roma, dopo che non passando a Colleferro, ma dall'altra parte, gli unici treni che avevamo per tornare avevano sull'ora, ora e mezza di ritardo, non per questa situazione con le ferro, ma normalmente lì non se ne preoccupavano, ci dicevano questa è la situazione, però vedete che il treno fa circa un'ora di ritardo, se volete prendere, e se no che faccio, il resto a Cassino. Questo è quello che gli ho detto. Vabbè, chiaramente dietro alla questione del biglietto c'è stata una scelta precisa, una questione politica. Gli studenti non dovevano arrivare a Cassino, unirsi con il corteo operaio, si è fatta questa messa in scena. Il problema è che questa cosa è passata quasi in sordina, si è letta solo per qualche ora nelle testate nazionali, c'è stato qualche trafiletto sui giornali nazionali. Dopodiché, insomma, ora si legge soltanto sui portali degli studenti. Comunque, questa è la democrazia italiana, e questo è il nostro fantastico settore. Samuele, vuoi aggiungere qualcosa? Forse Trenitalia aveva paura che la lotta per i diritti che gli studenti e i lavoratori portavano in piazza andasse a ledere un po' quelli che sono i privilegi che le sterilizzazioni delle ferrovie dello Stato gli hanno concesso, e che ha portato a tutta questa, come dire, a tutto questo lassismo, a questa, come dire, strutturazione della mobilità pubblica, insomma. La paura dei diritti, sempre. A proposito di diritti, magari poi Trenitalia un giorno ci spiegherà come facciamo noi a muoverci da queste parti col treno, soprattutto sulla Ionica, ma questo è un altro discorso. Morfin, vai dalla regia. E questo che vi parla è Gustavo. Abbiamo cambiato un po' speaker perché sennò, altrimenti la voce di Stasi lo sappiamo che vi dà fastidio, e quindi mi metto io che vi piaccio di più, diciamolo. E adesso Adesso saluto io personalmente gli ascoltatori on the web, gli ascoltatori su Radio Ciroma e su Transizione di Fase. Adesso diciamo siamo arrivati alla questione universitaria, la questione universitaria che a me piace tanto, e quindi l'ho strappata al nostro anchorman, diciamo così. Statuto, CDA, Senato, 12 membri, decreto attuativo, l'inizio della fine, John Wayne, linea dell'America. Tutte queste questioni diciamo saranno trattate da me. Io vorrei iniziare proprio con quello che sta succedendo nel quadro nazionale. In tutti i nostri rettorati, i rettorati di tutta Italia si stanno unendo in simposi di varia natura, consigli di amministrazione, senati, eccetera, eccetera, perché è iniziata la prima fase dello stravolgimento dell'università definitivo, è iniziata la caccia ai Superman, ai 12 Superman, ai 15 Superman per la precisione, che cambieranno gli statuti che si dovranno adattare a quello che è il nuovo decreto, disegno di legge 1905, che è stato trasformato a dicembre nella legge 240 del 2010. Ecco, prima inizierei leggendo quello che c'è scritto sulla legge. Dice che questa modifica di Senato è adottata con delibera del Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, e che le relative modifiche sono predisposte da apposito organo istituito con decreto rettorale, composto da 15 componenti, tra i quali rettore con funzione di presidente, 2 rappresentanti degli studenti, 6 designati dal Senato accademico e 6 dal Consiglio d'amministrazione. Ecco, in tutta Italia questa prima fase, come dicevo, ha portato a volte a alcuni in alcuni atenei scompiglio, mentre in altri atenei addirittura plauso. Ci sono delle componenti anche di rinomata tradizione sinistroide, se vogliamo dire, da PD e compagnia cantante, insomma, che addirittura vedono in questa occasione di scrittura del Senato e dello Statuto un'occasione per dare agli atenei la democrazia che fino ad adesso non avevano, contro lo spirito della legge. Questo sì, ho letto pochi minuti fa su un portale di un sindacato di cui non... Ma democratici nel senso che sono del Partito Democratico, o democratici nel senso che hanno a che fare con la democrazia e questa cosa strana? Come sei sottile, cioè Partito Democratico, democrazia è la stessa cosa, voglio dire, no? È questo che intendono loro, devono farlo democratico in questa direzione, ovviamente. Ed è patetico, nel senso, tutto questo è ovvio che si è inserito nello sfacelo, e adesso dicono no, ricostruiamo con questa è l'occasione per riportare la democrazia negli atenei. Un esempio su tutti è quello che è successo per esempio all'Aquila, no? Prima, come dicevo prima, di passare a Cosenza, a Cosenza oggi è una giornata calda, c'è stato Senato accademico e Consiglio d'amministrazione in una giornata, nel prossimo stacco vi diremo la formazione che scenderei in campo per salvare l'università pubblica, ovviamente in senso, ovviamente sono sarcastico, nel senso salvare, per salvaguardarsi la loro università. Ecco, all'Aquila cosa è successo? Faccio questo esempio perché iniziamo a parlare un po' in generale. All'Aquila è successo che c'erano alcuni docenti che, siccome hanno visto appunto in questa quindicina di persone dei soggetti che comunque dovevano avere rappresentanza di tutta l'università, perché stanno riscrivendo proprio le leggi e le norme con cui l'università si regolerà, soprattutto in una situazione particolare come quella dell'Aquila, no? Allora chiedevano a gran voce, hanno portato anche in consiglio d'amministrazione circa una settimana fa, se non vado errato, una mozione che chiedesse appunto che questi organi fossero eletti e non nominati, come dice la legge. Ma dall'altra parte ovviamente le varie lobby, eccetera, eccetera, hanno, hanno risposto con una nota scritta e con una votazione che ha stroncato questo disegno. Ci sono stati solo 4 favorevoli a questa cosa, 17 contrari, perché ovviamente queste elezioni, noi dobbiamo andare nella cosa di una democrazia fluida, le elezioni non ci servono più, a cosa servono? Fanno perdere tempo le elezioni. Esattamente, le elezioni fanno perdere tempo. Ecco, loro hanno risposto a questa cosa che, ma su via, questa commissione non gode di assoluta discrezionalità nella scrittura delle modifiche statutarie, giacché trova, udite udite, proprio nella legge di riforma, direttive e criteri molto stringenti. Ora, noi abbiamo un soggetto che riguarda questa discrezionalità, voglio dire, ne ha fatto un cavallo di battaglia in questo, no? Riguarda la discrezionalità, no? Della legge, tu cosa ci puoi dire? Giusto due parole. Cioè, siccome mi stavo aggiornando sulla commissione statuto, dunque riguardo alla discrezionalità della legge, mi pare che stiamo facendo riferimento a un comunicato di qualche figlioccio di Franceschini o cose del genere. La discrezionalità è il nucleo della, cioè è proprio il centro della legge, cioè si vuole lasciare tutta una serie di cose da interpretare e reinterpretare in passaggi successivi rispetto alla stesura del DDL, e si vuole lasciare a un ristretto numero di persone la possibilità di decidere loro chi sta bene e chi sta male, chi fa bene e chi fa male. E in realtà è l'inganno della meritocrazia, cioè attraverso la parola meritocrazia loro intendono decidere in base poi probabilmente a chi ci avrà la lingua più umida, oppure a chi sarà imparentato meglio, oppure a chi potrà pagare meglio, oppure a chi avrà una faccia più bella. Decidere chi sta bene e chi sta male, chi lavora, chi non lavora, chi studia, chi non studia. Ecco, appunto, quindi il fatto di parare dietro questa cosa, è ovvio che queste persone avranno molta libertà nel decidere come sarà fatto il nuovo statuto. Un esempio, è uscita la rosa dei nomi all'Università dell'Aquila, e chi ci troviamo in questa rosa dei nomi? Una proposta è Luca D'Innocenzo. Mo, Luca D'Innocenzo, voi ai più, sembrerà un nome che non ha nessun riferimento, ma invece, in verità, il signor Luca D'Innocenzo era, all'epoca del terremoto, era all'epoca presidente dell'ADSU, ovvero sia l'agenzia che si occupa del diritto allo studio. Questo qua era la stessa persona che avrebbe dovuto controllare le condizioni delle strutture in cui stavano quegli studenti che poi ci sono morti come i topi lì sotto. E lui, siccome ha dimostrato di avere molte capacità di gestione di cose, perché non dare ad un soggetto come questo anche la riscrittura dello statuto? Ecco. Ah, Gustavo, io non l'ho letta la lista di queste cose, ma magari, visto che si tratta di persone di comprovata capacità di gestione, magari c'è pure Bertolaso, guarda. questo qua penso che all'Università di Milano ce lo ritroveremo, mi sbaglierò, ma addirittura in quella rappresentanza all'Aquila non c'è nemmeno un impiegato, cioè... Questo si troverà anche a dover decidere quelle che saranno i modi con cui lavoreranno gli impiegati, e non ci sarà nessun impiegato che deciderà su questa cosa. Una cosa molto interessante. Il nostro rettore ovviamente ha bypassato questo passaggio, nel senso, il fatto che tra la dichiarazione del Senato e l'arrivo e la delibera del Consiglio d'amministrazione all'Aquila sia stato fatto in 2 giorni differenti, ha permesso diciamo un po' di critica alla cosa. Il nostro rettore è andato oltre, è entrato nel rettorato, ha detto barba e capelli, Senato e Consiglio d'amministrazione, così si è cacciato pensier e buonanotte, e nessuno può parlare. Ecco, noi adesso mettiamo un grandissimo pezzo e dopo vi faremo sentire i 15 che scenderanno in campo all'Università della Calabria, e quindi vi lasciamo per un buon 7 minuti con il miglior gruppo del panorama italiano progressive, gli Area, la Mela di Odessa. Il était une fois un pomme à cheval d'une feuille. Chevauche, chevauche, chevauche, chevauche, chevauche, chevauche, chevauche. Ensemble, elles traversèrent la mer. Elles apprirent à nager, arrivant à la fin de la mer où le monde devient gauche. Laissa sa vieille robe et mit sa robe de mariée la plus rouge. La plus rouge, ladies and gentlemen. Elle prit la porte dans ses bras et elle partit. Elles arrivèrent dans ce pays champ de blé, plein, plein de gens heureux, plein, plein de gens heureux. Elles descendèrent jusqu'à la grande place. Attention, s'unir encore. Mais où sommes-nous? Mais où sommes-nous? Où sommes-nous? Demande la femme. Si tu crois que la terre est plate, tu es arrivé à la fin de la terre, en bas du terre. Si tu crois que la terre est ronde, alors monte. Monte. Monte. Monte. Ça commence là. La ronde. Ecco su bravo Tizzo, ma come su i Peposhell, oh no, i Peposhell. Ma proprio Peposhell, che anche se capisci qual mare. Ah, però guardate che devi proposcere un po'. La terra è ancora plata. Sort of arrivato il grande momento della formazione della Commissione Statuto dell'Università della Calabria. In una giornata calda sotto il sole d'agosto negli Stati Uniti, il Consiglio d'Amministrazione e il Senato Accademico dell'Università della Calabria riunitisi eccezionalmente tutte e due nello stesso giorno, avranno preso sicuramente del loro straordinario per questo, hanno decretato la formazione che rivoluzionerà in meglio chiaramente la nostra università. Importa per la facoltà di conoscenza, ma non si capisce, cascitica. Importa per la facoltà di economia Cariola. Ai terzino destro per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali Di Neri. Stopper, tipicamente stopper, per la facoltà di lettere De Sensi. Terzino sinistro fluidificante dei dipendenti Loizzo. Qui siamo alla classe pura, il Garrincia della nostra università, lo storico e il politologo più famoso che noi abbiamo mai prodotto per la facoltà di scienze politiche, l'ex preside Silvio Gambino. Per la facoltà di ingegneria una figura storica, un mediano di rottura, grande recuperatrice di palloni, l'ex preside Laura Lucchi. Per la facoltà di farmacia, fantasista dalla spiccata visione di gioco, anche grazie a tutte le sostanze assunte in facoltà, il professor Pezzi. Ancora per ingegneria, sulla fascia destra, uno dei pendolini del ponte, l'ingegner Zinno. Siamo alla fase d'attacco. Sulla sinistra, per la indomita facoltà di lettere, Stancati. Dietro la punta centrale, il trequartista, il fantasista, l'uomo di genio, per i dipendenti un altro, no, l'hanno ripetuto che per i dipendenti, io sapevo che erano 14, dovete sapere, cari ascoltatori, che io lo dicevo che non erano 15, erano 14, infatti uno è cedivo, quindi questo qui non esiste, andiamo però... Ecco, il migliore è quello appena detto. Siamo alle battute finali. La punta centrale di peso, colui che finalizzerà in gol tutte le azioni della squadra, un vero rapinatore d'area di rigore, il delegato del magnifico rettore Barberi. Ma considerando gli impegni del calcio moderno, si sa che le squadre devono avere una rosa di almeno 20 giocatori, infatti la panchina non è da meno rispetto ai titolari, ci sono 14 titolari in questa squadra e soprattutto in panchina abbiamo alcuni elementi che più rappresentano le fasce sfruttate, le fasce deboli dell'università, in quanto ci sono i rappresentanti dei ricercatori e i rappresentanti degli studenti. Partiamo dai ricercatori. Indovinate un po' chi c'è dei ricercatori. Lo stiamo dicendo da un bel po' di giorni. Chi c'è secondo te? Tu secondo te dei ricercatori chi c'è? Umbrello. Umbrello. Che vivi ricercatori. In panchina l'ingegner Aloy. Sempre per i ricercatori. Chi ci sarà adesso? Umbrello. Secondo me è Umbrello. Non l'hai detto prima, sicuramente Umbrello. Solo Umbrello, ma... Sempre per i ricercatori in panchina, Greco! I rappresentanti degli studenti, Dacri e Cambrea. Chissà come mai. Come mai Dacri e Cambrea? È inspiegabile questa storia di Dacri e Cambrea. Non riesco a spiegarlo. Sono i meccanismi che ovviamente della democrazia e della nominocrazia. Comunque, dopo questo breve momento di scialo collettivo, vi abbiamo dato questa notizia che è un'anteprima assoluta, sono usciti proprio poco fa. Dicevamo prima appunto che il rettore ha voluto fare le cose in fretta, oggi ha fatto senato, accademico e consiglio di amministrazione per essere certo che non ci fosse nessuno ad intralciare questa pagina, la scrittura di questa obbrobriosa pagina dell'università pubblica. Ma è una cosa strana rispetto a questo nostro rettore, lui che ha sempre voluto fare le decisioni collegiali, ha voluto sempre avere il massimo rispetto per gli studenti, come dimostrano anche gli interventi sui giornali che ha fatto, ci è sempre coinvolto per tutto quanto, cioè, e come mai ha voluto fare questa cosa così strana questa volta? Anche la celere, questa cosa strana che attualmente... È un po' stressato. No, l'abbiamo detto anche alla scorsa puntata, è che lo stiamo stressando. Questo è il problema. E quindi lui si sente offeso. Questa è la situazione. E in sostanza la... Anche i rettori democratici nel loro piccolo si offendono, diciamo. esattamente. Comunque... Perché anche perché questo paese è diverso dall'Iran. O dall'Egitto, però dall'Egitto non tanto. Per quale motivo? Dall'Egitto non tanto perché gli studenti sono sul piede di guerra anche per questa questione. Le notizie dal mondo universitario sono molto interessanti e preoccupanti, perché vediamo per esempio quello che succede all'Università di Foggia, un'altra cosa interessante. Il Senato accademico ha deliberato una modifica di statuto che dà una valenza appunto ad un settore staccato dell'Università di Foggia, è il Centro Internazionale Interdisciplinare per gli Studi di Genere. E loro all'Università di Foggia hanno inserito questo articolo che è fatto sostanzialmente di tre punti salienti, no? Il primo, al centro, si parla appunto del Centro Internazionale Interdisciplinare per gli Studi di Genere, al centro possono afferire strutture didattiche, di ricerca e di servizi dell'Università di Foggia e enti, soggetti e associazioni esterne all'università che ne facciano richiesta. E la seconda, le strutture universitarie afferenti al centro possono partecipare al finanziamento delle attività dello stesso con il versamento di un contributo volontario. L'afferenza al centro di soggetti, enti e associazioni esterne all'Università di Foggia comporta il versamento di una quota annua, il cui ammontare è definito dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Gestione. Il terzo punto, possono inoltre aderire al centro docenti, ricercatori, ricercatrici, dottorandi e dottorande, assegnisti ed assegniste che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il centro, eccetera, eccetera, eccetera. Questo qua è ovviamente un inizio di staccamento e di creazione di queste strutture alternative che prendono la via del libero mercato e della libera impresa. Noi aspettiamo che nascano i fiori che sono stati piantati alla testa del ponte con la Tecnest, la osserveremo con tanto amore per capire il nostro incubatore d'impresa quali risultati darà. Sicuramente siamo preoccupati per quello che succederà. In alcune componenti studentesche dell'altra Italia sono uscite con dichiarazioni abbastanza dirette e abbastanza precise, che dovranno far riflettere anche la componente studentesca cosentina. Per esempio in Abruzzo gli studenti dicono che impediranno al Senato accademico ogni modifica allo statuto d'Ateneo fino al 30 giugno, in direzione ostruzionista chiaramente, affinché i vertici dell'università vengano commissariati. Questa qua devo dire che è una prospettiva che è anche interessante, visto e considerato che a noi non ci fanno andare da loro, magari facciamo venire loro da noi. Averli più vicini sarà un modo interessante per lavorarci, lavorare insieme, la democrazia diretta e partecipata, possiamo sperimentarla, no? La democrazia diretta e commissariata, invece va giustamente notare Flavio. Dall'altra parte ci sono contestazioni alle ennesime inaugurazioni fantoccio, come quella di Torino. E noi vi aggiorneremo sicuramente nelle prossime puntate. Per il momento la questione universitaria la chiudiamo qua. C'è un dubbio però. C'ho un dubbio, non lo so, riguardando quella cosa delle imprese, quella della Technest che abbiamo noi alla fine del ponte, io mi domandavo, ma saremmo noi a incubare le imprese o saranno le imprese a incubare noi? Secondo me saranno le imprese a incubare noi. Comunque il rischio di Paolini è compagnia cantante. Quando ero piccolo mio padre mi diceva si prudente, ogni volta che salivo in bici si affacciava per guardarmi pedalare e io che scomparivo nella via. Mi raccomando, non andare sui pericoli. Ma dai pa, dai mamma, tirato l'angolo sui pericoli, ci sono gli audaci con le ruote numero 28. E quando ho preso la patente, mio padre mi diceva sii prudente, uh-huh. E si affacciava sul balcone a guardarmi andare veloce, e si faceva il segno della croce. Ciao. Io son prudente, lungimirante, se vedo rosso mi fermo all'istante, son coscienzioso e meticoloso e temo solo quello che è pericoloso. Mamma, esco. Dove vai, Nicola? Mamma, ho riunione sul Cile. Dove? A che ora torni? Non lo so, forse dormo fuori. Non dirlo neanche per scherzo. E prendi su il giaccone blu. Mamma, è un eschimo. Io volevo essere come gli altri e loro mi avevano regalato l'unico eschimo sbagliato di tutta la città, il mio blu. Al matrimonio mia madre mi pregava si prudente, tieniti un po' di soldi sotto il letto che non si sa mai cosa può succedere, la vita a volte ti fa lo sgambetto. Persino a letto mia moglie mi pregava si prudente, io invece quella sera scelsi il rischio, dimenticai mio padre sul balcone e fu così che nacque il primo maschio. Io son prudente ma mica fesso, se vedo giallo io passo lo stesso, son coscienzioso e meticoloso, decido io però cos'è pericoloso. Sì, sì, certo, lo so, ho un conto in banca, quindi sono un cliente, ma certo che i soldi non devono stare lì. Lo so che devono viaggiare. Certo, l'ho imparato. Mi fanno sedere, mi dicono guardi, le daranno delle soddisfazioni. E io ci credo. Infatti i miei soldi un giorno mi dicono esco. Dove vai? Ma abbiamo trovato un'obbligazione in Cile. Mi raccomando. Ma questo Paolini per caso, quello di cui ogni tanto si vede in televisione che dice Berlusconi è un cornuto, Berlusconi è un cornuto, che non vuole provare a guadagnare. Io pensando a mio padre sul balcone ho detto si figuri, ma le pare. mi hanno detto lei deve imparare a cercare il rischio. Se vuole uscire dalla mediocrità, compili questo modulo in corsivo. Qui vince solamente chi è aggressivo. Io amo il rischio, io son dinamico. Prendo il coltello dalla parte del manico. Sono aggressivo, sono sprezzante. Dico che ho l'asso, anche se in mano un fante. Ho ringraziato ed ho scommesso tutto quello che nella mia vita ho guadagnato. Mi han detto bravo, bravo, complimenti. Grazie. Stai entrando dentro il mondo dei vincenti. Grazie a voi. E poi un giorno mi han chiamato, han detto scusi la parola, ma è successo un gran casino. Vabbè, rimediate. Uno dei suoi risparmi qui non è rimasto nulla. E dunque? A volte sa al mercato e birichino. Ma si recuperano? Io amo il rischio, io no. Son dinamico. Prendo il coltello dalla parte del manico. Sono aggressivo, sono sprezzante. Ho la mia bella dignità. Anche in mutande. Scusi, ma lei che se ne intende? Giusto professionalmente, com'è successo? Ma sa, qua, là, lei forse è entrato troppo presto, è uscito troppo tardi. Scusi, ma dalla prima notte di nozze che me lo sento dire. E allora ditelo se c'è bisogno, fate investimenti protetti. E a volte il mercato è birichino, effettivamente. Sa, lei è un po' troppo così, un po' troppo colì. Dunque... cambiamo leggermente, ma appena appena, argomento, perché poi il tutto è correlato, anche non volendolo, qui a Banda Armata. Mi è capitato sotto gli occhi qui una barzelletta. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Questa barzelletta è l'articolo 41 della Costituzione italiana, l'articolo che il nostro Premier ha dichiarato di voler riformare e che sinceramente ci lascia veramente esterrefatti, dal momento che a memoria così io non mi ricordo nessuna iniziativa economica privata indirizzata a fini sociali, che rispetta la dignità umana, che non può svolgersi in contratto con l'utilità sociale, insomma. Scusa, no, chi di noi non conosce i grandiosi marciapiedi stellato di Arcavaccata? Cioè. Beh sì, questa sì che è iniziativa sociale. E a proposito di iniziativa privata a fini sociali che non arreca danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, e tra poco starà per partire una campagna, la campagna referendaria contro il nucleare e contro la privatizzazione dell'acqua, a cui la rete di difesa del territorio si unirà, aggiungendo ovviamente quello che è uno dei cavalli di battaglia della rete, che come ricordiamo raccoglie i comitati, le associazioni, i singoli individui che si vogliono impegnare per difendere, insomma, nelle varie vertenze il territorio calabrese, per cercare di fare un'unica vertenza, in quanto crediamo che il problema non sia per esempio un elettrodotto, una centrale, una discarica, ma è un vero e proprio attacco al territorio della nostra regione, ai diritti dei suoi cittadini, al diritto alla salute. A proposito di questa campagna, noi spesso abbiamo per esempio chiesto, preteso, lottato per fare alcuni interventi nella nostra regione, alcuni interventi infrastrutturali, per esempio prendendo i soldi che si stanno gettando sul ponte, soldi che sicuramente non hanno nessuna utilità sociale, nonostante siano soldi pubblici, soldi che non servono a nulla, dal momento che per arrivare a Reggio Calabria da Cosenza ci vogliono 4 ore, che per avere una buona comunicazione in questa regione c'è bisogno dell'elicottero. E a tal proposito oggi è successa una cosa piuttosto carina in provincia di Crotone, praticamente al confine fra Crotone e Cosenza, di cui sentiamo direttamente il pezzo giornalistico. Un cratere nel mezzo di Cirò Superiore, in provincia di Crotone. A provocarlo è stata una frana, un movimento di terra lento, ma inesorabile, causato dalle piogge di questi giorni. Il terreno che ha ceduto si estende per quasi 200 metri, proprio di fronte ad alcune abitazioni, che ora sono a rischio stabilità e quindi sono state sgomberate. Anche la strada ha ceduto sotto la forza della frana, un evento che per questa zona non è una sorpresa, come spiega Vincenzo Francesco Benvenuto, ingegnere dei Vigili del Fuoco di Crotone. Questo processo franoso è noto purtroppo a Cirò perché sì, dagli anni 90 già era attivo e ha portato già purtroppo dei grossi problemi alla viabilità. Il comune ha cercato di fare questa pretella e purtroppo sia per le risorse limitate sia per i tempi non hanno completato l'opera e questa opera purtroppo è già stata devastata da questo movimento lento. Dopo aver allontanato le famiglie, i tecnici hanno messo in sicurezza i tubi del metano e i cavi dell'alta tensione. Una voragine. In Calabria, da un giorno all'altro, in un paesino come Cirò, spuntano delle voragini. Lo abbiamo già visto, abbiamo visto le frane assassine sulla Salerno-Reggio Calabria, abbiamo visto interi paesi franare e scivolare come se fossero su delle tavole da surf. E nonostante questo, un governo che comunque è stato eletto con voti in grandissima parte del meridione, dal momento che, se non mi sbaglio, in Calabria è stato eletto col 70% questo governo, e che ha visto anche la conferma del centrodestra. Certo, ci rendiamo conto che l'alternativa, insomma, erano Veltroni, Loiero e compagnia cantante. A proposito di compagnia cantante, cioè, che si è fatto uno sgarro prima, la canzone era di Paolini e dei Mercanti del Cuore, che non li caga mai nessuno, insomma, però la compagnia cantante si chiama Mercanti del Cuore. Faccio ammenda, però se chi mi scrive il copione scriva Paolini e compagnia cantante, scusate. Vabbè, la deresponsabilizzazione, no? Chiusa parentesi. E questo, insomma, è un fatto. Non a caso, anche come collettivo, ci impegniamo all'interno della rete per tentare di sollevare tutte le contraddizioni della politica, del sistema di governo e del sistema economico. Tornando a Trenitalia, la ferrovia ionica praticamente ormai è un binario morto ed era già piuttosto arretrato. Continuamente vengono soppressi i treni a lunga percorrenza per la Calabria. Non viene investito nessun soldo per la bonifica dei territori inquinati, si pensi al Crotonese, si pensi al Fiume Oliva, si pensi a Palizzi, si pensi a tanti altri territori. Nel frattempo si ciarla, si blatera a proposito di mega strutture faraoniche come il ponte sullo stretto. Dicevamo che c'è anche il nucleare di mezzo. In questi giorni è andato in onda sulle televisioni, oltre allo squallido spot dell'Eni, su cui magari poi faremo un piccolo passaggio, lo spot veramente anche quello solenne e commovente del forum nucleare, ovvero questa specie di cazzata che, a seguito del decreto legislativo del febbraio del 2010 che intende rimettere in discussione le centrali nucleari, la possibilità di costruire centrali nucleari in Italia, di cui fra l'altro in questi giorni è stato rigettato dalla Corte Costituzionale l'articolo 4, che è quello che in pratica tentava di bypassare le regioni per la decisione della costruzione delle centrali nucleari, qualcosa di simile al decreto salva centrali. almeno questo passaggio del decreto legislativo è stato rigettato alla Corte Costituzionale. Comunque si parlava di questa campagna menzognera del foro nucleare, che tenta di mettere sullo stesso piano, in buona sostanza, i rischi e i vantaggi del nucleare, costruendo una specie di finta democrazia a proposito di questo importante argomento. Il forum non nucleare ha fatto un controspot e siamo molto felici di mandarlo. Ti tocca il nero. Si avvicina la morte, non credi? Sono contrario all'energia nucleare perché mi preoccupo per i miei figli. Io sono favorevole perché tra 50 anni non potranno contare solo sui combustibili fossili. Ci sono dei dubbi sulle centrali, ma non ce ne sono sulla sicurezza. Ma l'ambiente viene contaminato e chi lavora e vive vicino a una centrale ha un aumento di probabilità di ammalarsi di tumore. Il nucleare è un'opportunità per il paese, gireranno molti soldi. O forse è solo una grande mossa di speculazione finanziaria. Il nucleare ha il peggior rapporto costo-kilowattora prodotto. O forse è una grande mossa. E tu, sei a favore o contro l'energia nucleare? O non hai ancora una posizione? Noi una posizione ce l'abbiamo e ce l'abbiamo ben chiara, dal momento che innanzitutto per supportare un sistema economico che bada al profitto c'è bisogno di consumare in maniera insostenibile le fonti fossili, e per cui c'è anche bisogno eventualmente di riempire i territori con scorie nucleari, scorie che comunque sono un problema reale, un problema immutato delle centrali nucleari, per quanto la tecnologia, per fortuna, finché gli arriva qualche soldo di ricerca, e la tecnologia va avanti. Dopo leggeremo un piccolo passo di un libro di Peppe Baldestarre e Emanuela Iati su questo argomento e approfondiremo un po' la questione. Ora, già che la regia albanese, che in questi giorni, insomma, come voi sapete, è in forte sommossa e rivolta, quindi è meglio non farla arrabbiare troppo, mi dice di tagliare, per cui mandiamo un pezzo del Fronte Popolare per la Musica Libera. Beh, il pezzo è dei Presi per Caso, che hanno fatto il CD col Fronte Musica Popolare per la Musica Libera. Come se fa una rapina. La macchina del Lesson caso. Number one. Sulle mani. Sulle mani! È importante che gli amici che te trovi siano buoni, non infami, col cognome un po' storpiato. Tipo negro, erbanana, romoletto, mezza trippa, ciancio, bimbo, sgarro, lercio, sbomballato. Poi se studia. Sì, se studia. Se studia, sì. Se studia. Nel senso che te devi da studiare per almeno 4 mesi, se quel luogo designato sia un po' pubblico, a sirene, cine, prese, guardie, occhi, orecchie, a quanto prospiciente a casa tua, o più in genere a quella pletora di gente che de norma non se fa di cazzi tua. Poi per l'arma non c'è molto da discutere. Due parole io te dico a capochino. No pistole, no mitraglie, no fucili, manco bombe, che ti serve in questo caso un temperino. Un temperino. Quindi entro. Anzi, entriamo. Qualche occhiata un po' te sbiego, una madonna non la spreco. Sicurezza un po' stentata, tiri fuori una risata. Quindi mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani. Mani in alto. A posto? A posto. Passi lenti, stessa faccia, mani in tasca, capochino, a disbrigate veloce con sto cazzo che bottino. E la porta è superata, l'aria è buona, forza andata per scappare defilato. C'è la macchina del capo. Per scappare defilato, c'è la macchina del capo. Oh! Per scappare defilato, c'è la macchina del capo. Oh! La macchina del capo c'ha il motore che è ingrippato. La macchina del capo c'ha il motore che è ingrippato. Sopamo che l'allarme ha già scattato. La macchina del capo c'ha il motore, a chi lo zito. ragazze e guardie. Ore 9:15 mi son precipitato, il luogo via Trastevere, altezza del mercato. In corso una rapina con bottino assicurato, avanti con i miei prodi e il veicolo ho circondato. La macchina del capo è un veicolo accerchiato, da 10 o più caramba con il viso già incazzato. Tentavo di scappare ma il gesto appare disperato. La macchina del capo c'ha il motore a chilosito. Cazzo è questo? Perfette sotto il giubilo, gaudente incensurato, legittimo padrone del veicolo citato. Perfetta questa corte che già il fatto ha denunciato, in zona tutti quinto, freddi notte, ma l'han soffiato. La macchina del capo è un veicolo rubato, sottratto a questo infame. Donna si è guardato, chiudiamo questa storia già passata in giudicato, con il vecchio a sto punto è fine pena, si è allontanato. La macchina del capo c'ha il motore che è ingrippato, la macchina del capo c'ha il motore che è ingrippato. E mo che cazzo famo che l'allarme ha già scattato, la macchina del capo c'ha il motore. Ebbene, la Rete Difesa del Territorio organizzerà, come abbiamo detto, una campagna importante che parlerà di appunto rifiuti. Ne abbiamo parlato abbondantemente nella scorsa puntata di Banda Armata, ne riparleremo sicuramente, in tema di acqua, approfittando del referendum e anche approfittando del referendum in tema di nucleare. A proposito di nucleare, ci piacerebbe leggere un piccolo passo, in realtà solo semplicemente alcune notizie del libro Avvelenati di Giuseppe Baldessarro e Emanuela Iati, che parlano dei costi del nucleare. A pagina 58 dice: naturalmente parliamo di rifiuti nucleari, il radioattivo, e in questo caso si tratta di cifre da capogiro anche per le tasche degli italiani. I costi per la conservazione e lo smaltimento definitivo del materiale radioattivo, inteso come messa in sicurezza, hanno un impatto economico e sociale spaventoso, con mille incognite sul futuro del pianeta. Secondo stime effettuate nella seconda metà degli anni 90, solo per incapsulare e mettere in condizioni di sicurezza le scorie ad alto livello di radioattività si dovranno spendere negli Stati Uniti oltre 110 miliardi di dollari al valore del 1996. In Canada 9,7 miliardi, in Francia e in Germania rispettivamente oltre 7 e 5 miliardi. Il problema poi ancora irrisolto ed economicamente molto oneroso è dove smaltire, cioè dove conservare in assoluta sicurezza la crescente quantità di scorie radioattive. Negli Stati Uniti nel febbraio 2002 è stato deciso di concentrare i rifiuti radioattivi in un unico deposito sotterraneo da costruirsi sotto il Monte Yucca. Praticamente si nasconde la polvere e lo sporco sotto il tappeto, in Nevada meridionale a 160 km da Las Vegas. Nei suoi tunnel dovrebbero trovare spazio 11.000 contenitori, 70.000 tonnellate di scorie, di cui 63.000 provenienti da centrali elettronucleari e 7.000 da impianti nucleari militari. Il costo e la complessità dell'operazione sono enormi. Solo per gli studi preliminari sul terreno e per il progetto sono stati spesi circa 7 miliardi di dollari. Sembra un po' la barzelletta di Futurgen e del carbone pulito. Questa è una piccola nota di chi vi parla. Per la costruzione del deposito si prevede una spesa di almeno 58 miliardi di dollari. Si tratta poi di trasferire il materiale radioattivo attualmente conservato in 131 depositi sotterranei distribuiti in 39 stati. Vado avanti perché ci sono dei dati interessanti anche per quanto riguarda l'Italia, perché prima che l'Italia rinunciasse al nucleare con un referendum popolare che da allora l'ha bloccato e che ora il governo tenta di sovvertire, comunque un progetto nucleare era già in atto. Andiamo a leggere questa breve sintesi piuttosto efficace di Ghiatti Baldessarro. In Italia la questione nucleare è gestita da una società ad hoc, la Sogin S.p.A. Controllata al Ministero del Tesoro, la Sogin, oltre 600 dipendenti, nasce nel 99 per amministrare gli impianti ex Enel. Dal 2000 si occupa dello smantellamento, del recupero e riutilizzo dei siti, del recupero dei materiali e dell'attività internazionale nel campo dei servizi di ingegneria nucleare. Per 7 anni, dal 21 novembre 2002, il presidente è stato il generale Carl Jean, militare con una lunga carriera alle spalle e incarichi di tutto rispetto. Una storia che si ripete, questa dei militari a capo delle... Siccome faccio a far capire quando leggo e quando non leggo, vabbè. Comunque questa è una storia vecchia dei militari che stanno a capo delle aziende pubbliche. Consigliere del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, olè, è dal 7 marzo 2003 su nomina di Silvio Berlusconi commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari con ampi poteri. La parola commissario torna per la seconda volta nella nostra trasmissione. Grande amico del ministro Tremonti, ha scritto un libro, Guerre Stellari, Società ed Economia nel Ciberspazio. Pensate un po' che soggetto. Collaboratore assiduo della rivista del SISD, scrive sulla necessità di rivedere il concetto di guerra. Sul suo cammino solo qualche macchia, ne vogliamo indicarla così. Una serie di interrogazioni parlamentari, come quella di un esponente del PD, sulle spese esorbitanti della Sogin e le presunte assunzioni clientelari legate ad Alleanza Nazionale. Strano dal momento che quelli di Alleanza Nazionale sono la sinistra del paese. È come quella di una ventina di anni fa, di un deputato di Democrazia Proletaria che chiedeva se il generale Jean fosse mai stato iscritto alla P2. Ma per il resto nulla, nel senso che la sua carriera è tutta e solo militare. A luglio 2009 la Sogin viene commissariata e la decisione non manca di stupire, dato i 176 milioni di ricavi, in netta crescita rispetto agli anni precedenti. In realtà il commissariamento rientra nella strategia di rilancio del nucleare avviata dal governo Berlusconi, che passa attraverso una ridefinizione dei compiti e una sua parziale privatizzazione rispetto alla società, per arrivare anche al commissariamento dell'Enea. Il 12 agosto 2009, quindi, vengono nominati il commissario ingegner Francesco Mazzucca e i suoi vice ingegner Giuseppe Nucci e il dottor Claudio Nardone. Il commissario Mazzucca scrive alla sezione Enea del USIR RDB Ricerca, il sindacato di base delle lavoratrici e dei lavoratori degli enti pubblici di ricerca. Proviene da Finmeccanica, l'azienda a controllo statale che si occupa di aeronautica, elicotteri, spazio, difesa elettronica, sistema di difesa, microelettronica, oltre a trasporti ed energia. Vicino all'UDC e a Rocco Buttiglione, ai tempi della Casa delle Libertà, dal cui consiglio d'amministrazione si dimette improvvisamente pochi giorni prima della scadenza del mandato, facendolo decadere, grazie ad altre 3 poltrone già vuote, e consentendo di fatto la rinomina di Guarguaglini, di Alleanza Nazionale, a presidente, e mettendolo al riparo dallo spoil system che sarebbe sopravvenuto a breve con le elezioni. Dopo poco tempo quest'ultimo lo nomina alla presidenza dell'Ansaldo Nucleare, settore di cui non si è mai occupato. La sua nomina a commissario di fatto prelude a una rimodulazione della Sogin, spezzandola in 2 parti. Sogin 1, che continuerà l'attività svolta finora con gli esiti già noti, ovvero lo smantellamento del vecchio nucleare e i compiti d'agenzia, e Sogin 2, formando una società con Ansaldo Nucleare per la commercializzazione dei reattori tipo Westinghouse. Pensate un po' che caso. Vado un po' avanti anche se la cosa è molto interessante, ma ci sono un po' di costi interessanti che è il caso di sapere. Per restare i costi, la realizzazione della struttura, stiamo parlando di una sorta di quello che abbiamo detto di prima negli Stati Uniti, in Italia, c'è un progetto che è quello di Scanzano Ionio, in provincia di Matera. Per restare i costi, la realizzazione della struttura peserebbe sulla bolletta degli italiani per circa 100-110 euro a testa da pagare per 18 anni attraverso un mini prelievo sulle tariffe, soldi del contribuente che servirebbero per finanziare la costruzione del deposito, ma anche il decommissioning, maledetto inglese, e la messa in sicurezza delle 4 centrali chiuse nel 1987. Si chiamano oneri generali di sistema. In realtà questa sorta di nuclear tax gli italiani la stanno già pagando da anni, precisamente dal maggio del 2001, quando un decreto del governo Amato, voglio dire, non stiamo parlando mica di Berlusconi, ha previsto questo prelievo che servirà a coprire gli oltre 3,3 miliardi di euro di costi quantificati al 2021 per mettere in sicurezza gli 80.000 metri cubi di scorie frutto dell'attività nucleare, smantellamento delle centrali, combustibile irraggiato, rifiuti da industrie e ospedali. Tra il 2001 e il 2021, dunque, la voce uscita dal nucleare andranno appunto oltre 3,3 miliardi di euro. La nuclear tax versata attraverso le bollette viene girata dalla Cassa Depositi e Prestiti alla Sogin, che a sua volta investe questi proventi in buoni del tesoro, pronti a utilizzarli quando serve. Per far comprendere fino in fondo il giro di interessi vorticoso che ruota attorno al settore, basta pensare che il conto per l'addio al nucleare è già pesato sulle tasche degli italiani per una cifra colossale. Dall'89, infatti, sempre sulle bollette elettriche, sono stati prelevati oltre 7,6 milioni di euro, in cifre rivalutate al 2003, si tratta di circa 9 miliardi e 523 milioni di euro, come rimborso all'Enel, ma anche ad altre società, fra cui, guarda un po', l'Ansaldo, che per il danno da essa subito a seguito della decisione di abbandonare il nucleare dopo il referendum dell'87, ha richiesto insomma un compenso. Sono appunto i cosiddetti oneri nucleari, per compensare gli investimenti fatti, le infrastrutture, le commesse, il costo del combustibile, le turbine dopo la defenestrazione del nucleare in Italia. Come dire che la breve stagione del nucleare made in Italy è costata al paese, oltre a roventi e infinite polemiche, la cifra, regia, non mi interessa niente, la cifra colossale di 11 miliardi di euro, poco meno della finanziaria del 2004. E non è finita, concludono gli Ati Baldessarro, visto che il governo Berlusconi è appunto tornato a rilanciare il tema. Perché era importante leggere questo pezzo? Perché dall'inchiesta di Yeti Baldessarro esce fuori che agli italiani questa storia è costata praticamente 3 o 4 volte. È costata circa 9 miliardi di euro dalle nostre tasche in questi anni per ripagare Enel, che è la stessa che poi tenta di devastare il territorio con un attivo di 5 miliardi, e Ansaldo, che nel frattempo si è inserita in altri circuiti, sempre attraverso soldi pubblici, grazie agli inciuci con parlamentari, con portaborse, con governi centrodestra e centrosinistra, per cui tutti questi giri di soldi che hanno fruttato l'Ansaldo ad Enel, ad altri tipi di imprese del settore, una cosa tipo 50 miliardi di euro, sono usciti tutti quanti dalle tasche degli italiani. E stiamo parlando non di cifre di poco conto, dal momento che voglio dire, di questi 5 miliardi di euro magari basterebbe un centesimo di questi 5 miliardi di euro per riassestare un po', per esempio, il sistema universitario, tanto per fare sempre un paragone. In tutto questo si tenta di far rientrare il nucleare attraverso decreti legislativi, quindi non solo si sovverte uno dei pochi organi vagamente democratici di questo sistema politico, ovvero il referendum che c'è stato nell'89, ma lo si fa anche attraverso un decreto, e lo si fa anche attraverso un decreto che di fatto delega tutti i poteri al governo. È sempre la stessa storia, è sempre comunque la stessa causa. Non si tratta di un problema tecnico, assolutamente no, dal momento che le soluzioni tecniche ci sarebbero. Non si tratta di un problema neanche politico, in quanto in questo caso la classe politica non è altro che burattina di burattinai che sono per esempio Enel e Ansaldo, ma si tratta di un problema solo ed esclusivamente economico. Il nucleare, così come l'acqua, così come l'università, così come gli ospedali, sono un business, ed è un business che è importante per quella minoranza di società che detiene la maggior parte della ricchezza d'Italia e del mondo. È importante che sia un business accessibile, che sia un business che si faccia. Detto questo, dopo 10 minuti, cosa c'è adesso in programma? Ah, ti. Rino Gaetano. A te che sogni una stella ed un veliero, che ti portino su isole dal cielo più vero, a te che non sopporti la pazienza o abbandonarti alla più sfrenata continenza, a te che hai progettato un antifurto sicuro, a te che lotti sempre contro il muro, e quando la tua mente prende il volo ti accorgi che sei rimasto solo. A te che ascolti il mio disco forse sorridendo, giuro che la stessa rabbia sto vivendo. Siamo sulla stessa barca, io e te. A te che odi i politici imbrillanti nati che minimizzano i loro reati, disposti a mandar tutto a puttana pur di salvarsi la dignità mondana. A te che non ami i servi di partito che ti chiedono il voto, un voto pulito. Partono tutti incendiari e fieri, ma quando arrivano sono tutti pompieri. A te che ascolti il mio disco forse sorridendo, giuro che la stessa rabbia sto vivendo. Siamo sulla stessa barca, io e te. Wow. Nel frattempo stanno arrivando messaggi in redazione dal momento che abbiamo rilevato la fantastica formazione dello statuto. Ne leggiamo uno che sembra, ci sembra molto interessante. Mamma mia, grandi nomi, attenzione, ne vedremo delle belle. Il grandissimo Aloy in commissione farà la differenza sicuramente. E sì, probabilmente sì, un messaggio che comunque noi diamo in diretta giusto per, insomma, spirito democratico. Adesso passiamo a cose, passiamo ad argomento, vai Sam. Eccoci. Io colgo subito la palla al balzo con quello che diceva prima il nostro flagiostasi nazionale, parlando dell'ENI, dell'Ansaldo, perché vogliamo fare un passaggio su quella che è la situazione internazionale, che in questi giorni è un po' calda, e non possiamo partire che se non dalla Tunisia, che è stata la prima a muoversi a creare delle sollevazioni popolari, che vengono fuori sostanzialmente dal fatto che quelle zone del mondo sono sfruttate e il cui territorio viene completamente devastato per via degli interessi, guarda caso, delle stesse multinazionali che dicevamo prima. Tanto è vero che nella Tunisia sono presenti l'ENI, l'Ansaldo e guarda un po' anche la Fiat e l'Impregilo, che sono, come dire, che non mancano mai, sono le aziende che noi conosciamo molto bene. Allora, in sostanza, per queste multinazionali hanno questo vizietto così di condizionare quelli che sono i governi nazionali di quei paesi e di metterci dei fantocci che loro per assolvere ai loro scopi di sfruttamento, per fare i loro porci comodi. Tant'è vero che in molte di queste repubbliche ci sono dei burocrati, repubbliche, fanno notare che repubblica è un parolone, insomma. Ci sono dei burocrati che stanno lì da almeno 15, la media 10 anni, insomma. E questo per dire che, come lo sfruttamento generale, basta ricordare la Somalia con la questione dei rifiuti e tante altre cose. Però, tornando alla Tunisia, In questo, con l'azione di queste multinazionali, soprattutto in questa fase di crisi internazionale, viene fuori anche il clientelismo più becero, viene fuori la disoccupazione, la fame. Allora grande parte della popolazione, soprattutto giovanile, si trova in condizioni veramente precarie. Lì la scintilla è scoppiata per il caso di un giovane laureato, non mi ricordo adesso molto bene, il giovane laureato che crudelmente represso per un gesto di disperazione si è dato fuoco. Questa cosa ha provocato nell'opinione pubblica tunisina uno scossone di rabbia che ha fatto scoppiare, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e quindi ha creato delle fortissime mobilitazioni molto, molto esplosive, che però avevano un fondamento sociale molto radicato, tanto è vero che grande parte della polizia e anche dell'esercito sono schierate a favore di questa mobilitazione, che ha prodotto in sostanza la cacciata di quello che era il fantoccio che era messo lì ad amministrare e governare gli interessi multinazionali, il famoso Ben Ali, che è stato costretto a fuggire, capo del governo da ormai 15 anni. Beh, insomma, questa esperienza della Tunisia ha fatto partire, come dire, ha dato il là un po' a tante sollevazioni popolari, tante manifestazioni in tutta l'area del Maghreb, in Cisgiordania, in Sudan e quindi anche in Egitto, che nella giornata del venerdì scorso è partita una mobilitazione generale che ha portato in piazza circa 1 milione di persone l'altro giorno. Allora, in questo frangente, la nostra cara Europa si schiera in maniera un po' ambigua. E tant'è vero che il nostro caro amico piccolo Napoleone, il nostro Sarkozy, fino all'altro giorno, per citare le sue stesse parole in visita al Cairo, diceva: vorrei dire al presidente Mubarak quanto apprezzo la sua esperienza, la sua saggezza e la visione moderata che è sua sulle grandi questioni, dove privilegia il dialogo, il consenso, la riunione in una regione che ha bisogno di pace e non ha bisogno di guerra. L'Egitto è per la Francia un partner essenziale e il presidente Mubarak è per noi un amico. Io vorrei chiedere a chi oggi scende in piazza e chi oggi manifesta e chiede la cacciata di Mubarak che cosa ne pensa di queste dichiarazioni di Sarkozy. Ma Gustavo? No, mi viene in mente un passo di una canzone celebre, no? Voi gente per bene, che pace volete, pace cercate, pace per fare tutto quel che volete, ma se questo è il prezzo, vogliamo la guerra, eccetera, eccetera, voglio dire. Infatti la parola chiave che si sta sentendo a livello internazionale su questa questione della rivolta in Egitto è stabilità. Cerchiamo stabilità, c'erano, subito un pochino la diretta Twitter oggi, e c'era qualcuno che domandava: sì, ma quale stabilità? Cioè, cos'è la stabilità? La stabilità è, in quel caso, è una stabilità a duro prezzo per gli egiziani, e lo stiamo vedendo. Abbiamo visto che la manifestazione di ieri di quasi 2 milioni di persone, qualcosa che ci, penso che ci sogniamo e cadiamo dal letto qui da noi, e quindi una stabilità per gli egiziani a duro prezzo. E niente, ora facendo riprendere un pochino Samuele, la questione, il nesso sta sui partner commerciali che sono, diciamo, si vedono messe in, in dubbio quelle che sono le loro attività lì, eccetera. E poi abbiamo il nostro caro sciatore degli esteri, no? Frattini, che in tutto ciò pensa di andare a sciare una settimana sì e l'altra anche, perché quando è che capita un'altra settimana di neve qua in Italia? Cioè... Sì, molto interessante. Frattini che oggi cercava di rassicurare, di chiedere che la stabilità, che noi non vogliamo la violenza, aborriamo la violenza. Sarebbe interessante capire le sue analisi fino a dove si spingono, il nostro caro luminare Frattini, insomma. Ma è vero, ci sono tante questioni economiche che sottintendono questa cosa, ma anche questioni politiche. Per esempio Israele, che anche lì oggi ha fatto sentire la sua voce impaurita di una pericolosa deriva islamista, nella veste del suo questo capo dello Stato Netanyahu, le parole sono molto più velate, sono molto più diplomatiche, mentre la verità, secondo me, la esprime il vice del primo ministro israeliano, che si chiama Silvan Shalom, quando dice che un mondo arabo democratico sarebbe oggi governato da un'opinione pubblica generalmente opposta a Israele. Ah, e questo è il problema, forse. Forse certo, quelle che da noi sono le grandi democrazie, forse hanno fondamentalmente paura di un'espressione del consenso veramente democratico. L'unica democrazia del Medio Oriente in questo caso ha paura di far cacciare le altre tirannie, no? E forse vuole il privilegio della vuole il monopolio della democrazia. E quindi dopo i morti e feriti, oggi si parla di 3 feriti e di 1500, 3 morti e 1500 feriti, La questione inizia a diventare veramente importante. L'altro giorno si è avuto anche quello che da noi stiamo aspettando da molto tempo, uno sciopero generale ad oltranza, che ha portato in piazza ancora un maggior numero di persone che provengono da tutto l'Egitto a questo punto. Il sindacato dei lavoratori israeliano egiziano oggi si è scisso e un sindacato autonomo ha proclamato lo sciopero generale, e che è stato quello che ha riuscito a portare avanti la protesta, che oggi chiede a gran voce la cacciata di Mubarak. Forse mi viene da sviluppare una riflessione anche qui, visto che l'ANSA di ieri diceva che la disoccupazione giovanile è intorno al 28% in Europa. Forse anche qui avremo bisogno di un bello sciopero generale, di una sollevazione generale che ci porta a cacciare quelli che sono anche i nostri piccoli burattini, i nostri piccoli fantocci che reggono il nostro Stato sempre in favore di multinazionali, forse di tipo un po' diverso, ma sempre di multinazionali. Sì, perché sia ben chiaro, quando si parla di stabilità, di calma e di pace... Cioè, la cosa è direttamente legata, ne parlavamo prima, no? Nel senso alla potenza di investimento, nel senso la manifestazione, un popolo tumultuoso, è un popolo che, come dire, non agevola gli investitori esteri, nel senso li distoglie dall'intenzione di investire, e quindi è una cosa che fa male al PIL, è una cosa che fa male all'economia, e quindi è una cosa sbagliata da non fare. Poi ricordiamoci, a proposito sempre di Mubarak, dello zio che non sta tanto bene, della ragazzina interessante per il nostro caro amato Presidente del Consiglio, no? E ricordiamoci che è andato, quando andò Berlusconi da Mubarak, e gli domandò: cos'è che fa di così speciale per riuscire a tenere il potere da 30 anni nel suo stato, anche con quei piccoli problemini interni che aveva, eccetera? Che lui sarebbe andato a lezione da Mubarak. E quindi forse per questo pensò di avvicinarsi alla nipote nel frattempo, dice. Frattempo poi prendo lezioni dallo zio. E no, scherzi a parte, non c'è molto da scherzare su questo. Diciamo, questo fa capire bene anche come come mi disse qualcuno un giorno, ognuno è il punto gioico di se stesso. Forse noi italiani siamo ciechi sulla, in generale, sulla nostra situazione, che poi non mi sembra così differente da quella egiziana, contestualizzata al nostro territorio, ma comunque non è che differisce poi di tanto. Sono d'accordissimo, è vero che anche lì adesso ci sono i piccoli capetti dell'opposizione che cercare di sia in Tunisia che in Egitto di restaurare un governo che semplicemente si affida a un diverso soddisfacimento degli stessi interessi che affamano il popolo, distruggono il territorio. Allora lì noi crediamo che, francamente, anche lì noi non dobbiamo cedere oggi a chi in Italia vuole sostituire il nostro piccolo sultano Berlusconi con un altro sultanato di tipo leggermente diverso. Allora crediamo che anche lì bisogna, come dire, che le popolazioni insorgano, che si gestiscono da solo il potere e che, insomma, portino avanti autonomamente la loro lotta, insomma. Così come dovremmo fare anche noi qui, senza affidarci a nessuno, ma partendo dalle nostre basi, come facciamo noi studenti giorno per giorno, soprattutto in quest'aula occupata. Adesso che pezzo mandiamo, regia? Stanchez, ragazzi. Thank you. Siamo in chiusura. Banda Armata di stasera finisce qui. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato in streaming sul sito p2occupata.org, coloro che ci stanno sentendo in differita sulle frequenze 105.7 di Radio Ciroma e in streaming su Radio Transizione di Fase, ricordiamo il sito www.transizionedifase.org. La scorsa puntata l'abbiamo chiusa con un caso umano, un magnifico caso umano, quello di Giovanni. Questa sera chiudiamo invece con delle note positive, chiudiamo con una delle pochissime buone notizie per l'università italiana di questi giorni. Voi sapete che qualche settimana fa un illustre senatore, ex presidente della regione Sicilia, ha dovuto lasciare i propri incarichi perché ha ricevuto un impegno, diciamo un lavoro così, un lavoro a tempo pieno per 7 anni nel carcere di Rebibbia. Questo senatore illustre si chiama Salvatore Cuffaro, la cui magistratura di sinistra, noi non siamo assolutamente giustizialisti, noi della cosiddetta giustizia borghese non ce ne può fregare di meno, ma la magistratura di sinistra lo ha condannato per favoreggiamento della mafia. Ma l'università italiana fa passi così da gigante che l'ex senatore ha deciso in carcere di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza. Ha detto di riempire, insomma, le proprie giornate in cella studiando evidentemente diritto, cercando probabilmente un modo brillante per non essere più condannato per le proprie malefatte. E nel frattempo alla Camera si votava per accettare o meno le sue dimissioni. Su circa 300 votanti, non ricordo quanto, pensate che una decina hanno avuto il coraggio di astenersi e addirittura 25 parlamentari hanno votato no alle dimissioni di un condannato per favoreggiamento aggravato di mafia. In ogni caso, come studenti, ringraziamo il senatore, il presidente, il mafioso Salvatore Cuffaro per aver dato il suo contributo non solo simbolico ma sostanziale all'università italiana, anche se purtroppo si è iscritto a un'università privata. Questa è Banda Armata, vai con la sigla, buonanotte. Ratzinga. Ratzinga. Trema il regno delle tenebre del male, dalla fortezza di San Pietro arriva, coi pugni teologici. Ratzinga. Ratzinga. Si scaglia dal sagrato contro il male, se sei nemico prega è già finita, la chiesa mattina dice Ratzinga, Ratzinga, croci rotanti, Ratzinga, Pater Noster, Ratzinga, ostia di fuoco, ma la mente di Lutero ma tutto il resto va da sé. Gli occhi sputa fuori salmi gamma, non c'è chi è forte più di te, Ratzinga, Ratzinga, ha la mente di Lutero ma tutto il resto fa da sé, non conosce la paura né sa italiane che cos'è, se bisogno vuoi invocarlo con la Bibbia apparirà, Ratzinga. Ratzinga. porta. L'ama diabolica. Doppio rosario.